Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Guido Barilla, 55 anni, parmigiano, sposato con 5 figli. Liceo classico a Parma, poi Boston negli Stati Uniti e studi in filosofia. Dal 1993, alla morte del padre Pietro, diventa presidente della società di famiglia, ruolo che copre tuttora. Lo scorso anno, per i 100 anni del padre, morto nel 93, Francesco Alberoni ha scritto un libro in sua memoria e l'attore Zingaretti ha interpretato un ipotetico testamento che diceva queste parole. La mia è stata una partenza improvvisa. Il mio viaggio termina in pochi secondi. Un viaggio lungo, entusiasmante. Termina bene, nella quiete della notte, dopo aver trascorso una giornata come tante in ufficio, tra la mia gente, a parlare di prodotti, programmi, a guardare il futuro come se fosse ancora un tema al quale avrei potuto dare un lungo contributo. Ho avuto il tempo di salutare tutti e di vedere che ogni cosa che lasciavo aveva già preso il suo giusto corso. La famiglia era unita e tutti e quattro i ragazzi avevano maturato esperienze e conoscenze più che sufficienti per proseguire senza di me. Ero sereno. Sapevo di aver compiuto la mia opera, di aver calcato questa scena con dignità, nel rispetto di tutti. Signor Barilla, riconosce il pensiero di suo padre in questo testamento scritto da Alberoni? Cioè, certo che lo riconosco. Devo dire che riascoltarlo è molto emozionante. Senta, suo padre oggi avrebbe 101 anni, appunto, quasi. Le sue intuizioni sono ancora un elemento di sviluppo per la Barilla? Certo, mio padre ha avuto una serie di intuizioni che erano universali, legati al mondo dell'industria, dell'impresa. Aveva l'idea del prodotto come la principale missione che ogni impresa alimentare dovesse, diciamo, perseguire. E oggi ha in mente il prodotto ogni giorno l'azienda. E quindi lì c'è Barilla. Senta, Guido Barilla, lei è un filosofo mancato prestato all'industria. È presidente perché è il primo dei quattro fratelli. È stato naturale questa presidenza? Ma alla morte di nostro padre noi abbiamo avuto un momento di riflessione tutti assieme e abbiamo deciso di dare a me questo compito che io svolgo regolarmente assieme ai miei fratelli e che è, diciamo, il portavoce, il portabandiera di una famiglia all'interno di questa avventura industriale. Senta, ma coi fratelli non ci sono mai stati conflitti? Oh, certo, ma noi abbiamo, provo a dire, conflitti ordinari, nel senso che gestiamo l'azienda assieme al management, dibattiamo giornalmente su tutto, progetti, prodotti, abbiamo molti punti di differenza, di visione, ma alla base c'è un'unità straordinaria che è quella che ha contraddistinto appunto la famiglia in tanti anni. Ecco, io glielo chiedo però, perché suo fratello Luca, quando c'è stato l'incidente con la zanzara, ha detto che in azienda sono stati giorni drammatici anche tra voi. Non c'è dubbio, perché è sicuramente quello che io ho detto ha creato un'enorme tensione all'interno della società. La società ha vissuto per un periodo di qualche giorno una forte anche angoscia, come credo fosse lecito. E quindi anche tra di noi c'è stato un dibattito molto acceso. Senta, però in America da sempre è stato il grande sogno per voi. Suo padre voleva conquistarla, voi in realtà ci siete riusciti. Come? Ma noi abbiamo pensato a metà degli anni 90, nel 95, che l'Europa fosse in una profonda crisi e quel periodo era tipico della crisi e pensammo di dover veramente andare in un nuovo continente. Ci dedicammo agli Stati Uniti in modo molto serio, con grossi investimenti. Abbiamo costruito due stabilimenti, abbiamo proposto i nostri prodotti. Quanto del vostro globale negli Stati Uniti ormai? Oggi gli Stati Uniti valgono più del 10% del totale della Barilla. Ecco, ma e quando lei ha detto quello che ha detto alla zanzara, ha creato dei problemi? Certo, io alla zanzara ho detto una gran fesseria, della quale mi sono anche molto scusato. In realtà non ha creato dei grandi problemi, i consumatori sono legatissimi ai marchi, ai prodotti. i prodotti sono di grande qualità e riconosciuti come tali. Senta, certamente comunque lei ha sperimentato in diretta la forza e la violenza della comunicazione immediata e globalizzata. Che cosa le ha insegnato questa esperienza? Mi ha insegnato che bisogna essere molto cauti, perché non necessariamente le cose che si dicono sono poi quelle che vengono riportate, e specialmente i messaggi vengono utilizzati per raggiungere diciamo cose che non sono necessariamente all'origine del messaggio. Senta, dottor Barilla, voi siete una grande azienda multinazionale e familiare contemporaneamente, però non quotati in borsa. Suo padre ha detto no alla borsa, anche voi continuerete a dire no? Ma noi abbiamo sempre detto no, perché l'azienda ha un flusso di cassa tale da potersi permettere gli investimenti che ogni anno noi facciamo, sia nei mercati dove gestiamo regolarmente che in quelli dove vogliamo espanderci. La borsa serve per fare operazioni straordinarie, Barilla ad oggi non ne ha fatte. Ma si può crescere nel mercato globale contro chi non ha limiti negli investimenti? Sì, si può. Con un'enorme fede di prodotto, con un'idea chiara di percorso, con la volontà di essere i migliori in quello che si sa fare, e noi sappiamo fare poche cose, ma riteniamo di essere i più bravi. Senta, ma le aziende familiari hanno un futuro nel mondo globalizzato, secondo lei? Le aziende familiari hanno un grande futuro se le persone, gli imprenditori di famiglia saranno capaci di prepararsi in modo adeguato, perché le sfide sono significative. Certo, e i conflitti sono sempre lì, insomma, molto a rischio. Ecco. Senta, Barilla, lei è l'abbiamo detto, un aspirante filosofo prestato all'industria. Suo padre, uomo geniale e pratico, era d'accordo con questa sua passione oppure la guardava un po' così? No, la guardava con un po' di sufficienza. In realtà, il mio percorso di studi, tra cui filosofia, è stato anche molto importante, è stato sofferto e tergiversato. E io in realtà non ero un filosofo. Ho studiato filosofia, mi è piaciuto, è appassionato molto, ma è stato un percorso mio giovanile che non rimpiango affatto. Senta, suo padre era un artista mancato, oltre ad essere un grande imprenditore. Lei che cosa avrebbe voluto fare se non fosse presidente della Barilla? C'è una passione? Ma io ho sempre avuto un'enorme passione per lo sport fin da ragazzo. E se non avessi fatto l'imprenditore mi sarebbe piaciuto lavorare nello sport. Ma lavorare, cioè? Lavorare, fare l'atleta da ragazzo sicuramente, che era una cosa che mi appassionava molto, ma poi lavorare con i ragazzi, con i giovani, fare l'atleta, l'allenatore. Cosa? Qual era lo sport che gli piaceva? Sarebbe piaciuto? Sciavo da ragazzino, correvo a piedi, ho corso in moto, insomma. Ma fra tutti, quello, la medaglia d'oro in cosa? No, sarebbe piaciuto? La grande passione giovanile è stato lo sci. Senta, e lo sogna ancora nei momenti difficili? Sempre, poi lo rivivo coi figli, quindi è un meccanismo continuo. Non finisce mai. Non Senta, finisce Barilla, mai. Suo padre finanziava la Democrazia Cristiana perché diceva ci difende dai comunisti, faceva bene? Faceva bene, in quel periodo credo che garantire all'Italia la libertà sia stato il valore di pochi, tra cui sicuramente mio padre è stato uno di quelli. Ma è lei favorevole a finanziare qualcuno? Favorevole al finanziamento pubblico? No, io non sono favorevole al finanziamento pubblico, anzi penso che i partiti politici debbano ritrovare risorse all'interno di coloro che eventualmente sono d'accordo, li sostengono con strumenti adeguati e trasparenti che possono dimostrare. Ma come dovrebbero finanziarsi allora? Così? Con auto? Cioè, con un autofinanziamento, con delle sottoscrizioni. Ma non si rischia di dipendere da quelli più ricchi? Dai ricchi? Ma questo è il mercato, e anche, anche la politica è un mercato, come lo si vede tutti i giorni. Senta, in passato si è parlato di lei in politica con Berlusconi, ci ha mai pensato? No, non ci ho mai pensato, Berlusconi non me l'ha mai chiesto, nonostante tutto quello che si è detto. Io non ho le caratteristiche personali per fare il politico, perché non sono diplomatico, stare in mezzo a grandi gruppi di persone e dire non sempre quello che penso per me è molto complicato. È molto complicato. Ma Berlusconi l'ha mai chiesto? Mai chiesto. Siete amici? Siamo amici e lo rispetto molto. È una persona che ha personalmente ha dato grande affetto a me e alla mia famiglia. Senta Marilla, la corruzione è un male endemico della politica. Però è anche un male della finanza speculativa, che è una grande corruttrice dell'uomo. Come si può combatterla? Ma bisogna staccare la finanza pura dall'industria. C'è stato un periodo in cui abbiamo peccato di superficialità e la finanza si è impossessata dell'industria, quindi bisogna dare una grande Ma ne la vede la questa sensibilità? È complesso. No. Oggi il nostro meccanismo, i nostri modelli sono impostati così, bisogna osservarne con grande attenzione i pericoli. Sì, però la crisi del 2008 sembra non aver segnato quasi nulla. Niente. Non ha segnato assolutamente nulla. Sembra quasi nulla. Peggio di prima. Siamo peggio di prima e credo che dovranno succedere cose molto gravi perché il mondo capisca che non è la direzione corretta. Senta, alla festa per i 100 anni di suo padre, oltre a Berlusconi, c'era anche Renzi. Adesso fa il nuovo governo. È un bene per l'Italia, secondo lei? È un bene. Renzi è un giovane politico, pieno di entusiasmo e di energia. Io spero per l'ennesima volta che qualcosa possa succedere. Cosa si aspetta da lui? Mi aspetto dedizione ed energia. Io penso che l'Italia sia, qualcuno l'ha chiamata una palude, un pantano, sono d'accordo. Il nostro è un paese drammatico per molti aspetti. Un'energia rivoluzionaria. Ci vuole un'energia rivoluzionaria. Renzi potrebbe averla, secondo lei? Potrebbe averla, spero. Spero che ce l'abbia, che abbia il coraggio di poterlo fare. Lo conosce? L'ho conosciuto un paio di volte e l'ho stimato per come l'ho conosciuto. Senta, e cosa servirebbe a Renzi per far ripartire l'economia italiana? Non a parole ma a fatti. Servirebbe un'idea, cosa che non mi sembra sia ancora emersa, perché in un momento di così elevata emergenza, dove ci sono situazioni drammatiche in moltissimi punti, un'idea comunque bisogna avere il coraggio di tirarla fuori, un'idea che dia al paese una speranza a cui tutti possiamo collaborare. Tutti accodarci, ognuno nel suo ruolo, però tutti accodarci attorno a un'idea. Ecco Barilla, ma su cosa dovrebbe puntare in concreto subito Renzi? Io penso che il valore inestimabile che l'Italia ha è il suo territorio. Il territorio vuol dire parecchie cose, vuol dire il turismo, vuol dire l'arte, vuol dire la cultura, vuol dire il ritorno anche al territorio. Noi stiamo dilaniando questa nostra Italia. E bisogna ritornare al paese, al territorio. Dovrebbe essere l'unica vera grande idea da portare avanti. Senta, il presidente della Confindustria, Squinzi, è stato durissimo con Letta. Ha fatto bene? Credo di sì, ma non per Letta di per sé, persona. Certo. È stato durissimo col governo, perché la situazione dell'industria oggi è insostenibile. L'Italia, chi fa industria in Italia è in grave difficoltà per una serie di ragioni. C'è bisogno di una serie di riforme, bisogna rivalutare la pressione fiscale perché non è sostenibile né per la grande, né per la media, né per la piccola impresa, e neanche per i cittadini. E questo il Paese deve comprenderlo. Non è quella la porta per la risoluzione. Senta, lei più volte è stato critico però con Confindustria. Perché? Certo, perché io penso che Confindustria sia stata lenta nel riconcepire il suo ruolo in questo momento di grande trasformazione. Ho detto lenta, non ho detto che non lo stia facendo. Sì. Diciamo, le riforme recenti, anche quella presenti, ha tentato di fare di girare una pagina. Io credo che non sia ancora sufficiente. Non è ancora sufficiente. E che il percorso sia ancora lungo. Senta, lei pensa sempre che sia necessaria una separazione tra aziende manifatturiere e quella dei servizi in Confindustria? L'ho detto, lo credo, lo penso. Io penso che non ci sia compatibilità di interesse di chi produce e di chi fornisce servizi. Ma in Confindustria ci sono appunto aziende pubbliche come Eni, Enel e non la Fiat di Sergio Marchionne. Ha senso? Diciamo, non ha un senso storico, ma ha un senso tecnico. Quindi dipende da che punto di vista uno la vede. La Fiat ha avuto molto dal nostro paese. Confindustria è stato lo strumento della Fiat per attraverso quando quale non è più servita l'ha mollata. Poi ci sono delle logiche aziendali che seguono un'altra strada, per cui la Fiat ha diritto di fare le proprie scelte, è un'altra epoca, e di diventare più competitiva se lo ritiene con una certa modalità. Ma Marchionne per lei è un modello di manager globale o no? Beh, Marchionne è uno dei modelli di manager globali, poi ce ne sono anche altri. Me ne però, dice un altro? Beh, per esempio Claudio Colzani, che lavora con noi in questo momento, è un modello di manager globale. Senta, ma perché il manifatturiero torni al centro della politica economica, che cosa c'è di indispensabile? Un po' l'ha detto. L'ho già detto, è l'idea. Il manifatturiero in Italia si deve accodare all'idea. È chiaro che non è un accodamento matematico, immediato, ma deve comunque avere un'idea di percorso. Senta, però intanto a casa nostra, Diego Della Valle e John Elkann si accusano l'uno l'altro di essere un piccolo imprenditore, uno che non ha mai lavorato, insomma beghe fra prime donne, o c'è dell'altro? No, penso che ci sia dell'altro. Io penso che il percorso che Della Valle ha fatto con la sua azienda in Italia sia un percorso straordinario che vede ogni giorno diciamo un impegno e la sottoscrizione all'impegno. Quindi ha ragione Della Valle. Ma io sto più dalla parte di Della Valle, perché noi siamo come Della Valle in realtà. Senta Barilla, il vostro centro studi in vista dell'Expo di Milano 2015 ha proposto un protocollo sull'alimentazione e la nutrizione. In due parole, cosa proponete? Allora, noi abbiamo affrontato questi argomenti ormai da 5 anni, abbiamo fatto una serie di studi molto approfonditi e ci siamo resi conto che l'ignoranza nel mondo su questi argomenti, di cui tutti ahimè parlano a vanvera, è enorme. Quindi il nostro primo obiettivo è informare. Il protocollo di Milano dovrebbe porre l'attenzione sui problemi dell'alimentazione che sono globali e straordinariamente cogenti. Ecco, voi infatti parlate di stile di vita sani e ricordate che per ogni persona malnutrita ce ne sono 2 in sovrappeso. Certo. Ecco, ma il pane e la pasta non contribuiscono all'obesità? Beh, il pane e la pasta sono alimenti di base di cui le popolazioni si nutrono dall'inizio dei tempi. E hanno portato non solo hanno sfamato molta gente, ma hanno dato un'enorme gioia gastronomica. Il pane e la pasta sono prodotti sani che vanno consumati regolarmente assieme a una dieta equilibrata. Insomma, quindi si sente responsabile dell'obesità? Ma lei, assolutamente, anzi, chi dà i carboidrati l'onere dell'obesità è un ignorante. Senta, 24 milioni di persone ogni anno muoiono per eccesso di cibo. Certo. Lo dice appunto il vostro rapporto. Ecco, ma le merendine non hanno delle colpe? Le merendine sono un alimento che stanno all'interno di una dieta dei bambini o degli adolescenti in maggioranza, che devono essere consumate con equilibrio e hanno un ruolo all'interno dell'alimentazione originaria. Noi tra l'altro abbiamo riformulato in questi anni tutte le ricette, le merendine sono sempre più leggere e sono comunque degli alimenti equilibrati. Non si sente spacciatore di merendine? Neanche per idea, non sento spacciatore di nulla. Noi tentiamo di dare alimenti sani e equilibrati a tutti quelli che li vogliono. Senta Barilla, ma su questi temi l'Expo 2015 va nella direzione giusta oppure no, secondo lei? Allora, l'Expo è una grande speranza che il paese deve avere, è un progetto unico, non ripetibile a breve. Dovremmo riflettere con grande attenzione come utilizzare l'Expo. Come sempre in Italia il percorso non è semplicissimo, nel senso che abbiamo passato anni in cui abbiamo anche tanta attesa, tanto tempo perso. Io penso che adesso ci sia l'occasione per focalizzarci. Ma cosa vi aspettate di preciso voi dall'Expo? Che il paese possa diventare veramente il teatro dell'alimentazione, della gastronomia e proporre al mondo. Insomma, questo Made in Italy da vendere. Ecco. Certo, il Made in Italy da vendere, e l'alimentazione e la gastronomia è una parte significativa del Made in Italy. Senta Barilla, ho letto che La Repubblica di Platone è uno dei suoi libri preferiti, perché? Ma c'è una ragione oggettiva. Io avevo un grande professore all'università che era Franco Fornari, a cui devo moltissimo della mia formazione, e io per lui preparai la dispensa sulla lettura della Repubblica di Platone. Mi innamorai del libro lavorando sul libro per 8 mesi. Ah, e quindi è una passione che deriva dovuta all'attenzione con cui io preparai la dispensa per il professor Fornari. Senta, lei in che cosa si sente più simile a suo padre? Ma nel coraggio nel momento del bisogno, credo. E più diverso? Sono più superficiale di mio padre, meno attento. Poi non sta a me dire le cose buone. Senta, le faccio un'ultima domanda, Barilla. Lei ha 5 figli. Che cosa vorrebbe essere sicuro di aver insegnato a questi figli? Ad essere delle persone, ad aver coraggio e a chiedere scusa. Grazie. Grazie. Mix 24. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Buongiorno. Allora, buongiorno. Mario Secchi, il titolo del faccia a faccia di Barilla? Una pasta d'uomo. Carino. Pietrangelo? Il mugnaio a Canossa. La cenere invece che la farina. Un nostro ascoltatore ha fatto un tweet delizioso. Cita Barilla: mio padre faceva bene a finanziare DC per la libertà, dice l'ascoltatore. Sono d'accordo, spero non si rimangi anche questo. Quando non si è rimangiato niente. No, anzi, comunque, i nostri ascoltatori sono esigenti. C'è molto, molto. Solo che questo finanziamento da DC andava bene. Certo. Funzione anticomunista. DC, tutto. Infatti, l'iconcina del nostro ascoltatore c'è una croce da crociato e poi una spada brandita. Beh, accidenti. Ci crede ancora. Però, non male. Allora, Mario, che cosa bolle in pentola oggi? You got a fast car, is it fast enough so we can fly away? You gotta make a decision, leave tonight or live and die this way. Era la canzone di Buttafuoco. Lo so, mi sono sbagliato. Pensavo a Barilla. Così capiscono che andiamo in diretta. Sono le 9:31 e 49 secondi a firmare la diretta. E allora, Pietrangelo? E perché avevo bisogno di un'atmosfera a metà tra il giorno e la notte. Poi c'è l'inverno che se ne va via, la luce sempre più forte, i finestrini, perché io penso sempre ai nostri ascoltatori in macchina, immagino questi finestrini pieni di vita intorno, e quindi questa atmosfera è perfetta. Ascoltate. Caro Giovanni, io ho sempre un tremendo sospetto che più che agli ascoltatori questa canzone sia dedicata agli ascoltatrici o a un'ascoltatrice, però sai, conoscendo Buttafuoco, vabbè, una per tutte. Sempre per qualcuno e molto spesso si parla solo per se stessi, perché ricorda, Mario, siamo solitudini abitate da ricordi. Io non ce solo la faccio con tutta sta filosofia a quest'ora, ma non allora ce la più. Adesso proviamo a capire che cosa bolle in pentola oggi, che di cose in pentola ce ne sono tante. Abbiamo l'incaricato. Quanto è bello questo intro di chitarra. Jimmy Page, le Zeppelin. Perché? Per il rivoluzionario. Ah sì, assolutamente. Matteo Renzi. Tra un'ora va da Napolitano. Vediamo poi che cosa sforna, no? Perché che cosa ci sarà? Come sapete tutti, c'è lo sport più bello del mondo, il Totoministri. Sì, la Totoministri, insomma, io credo che dovrà essere un toto rivoluzione questa. Ma Pietrangelo, l'aspettativa è fortissima. Tu faresti il ministro della cultura, per esempio? Ma guarda, una quota riservata al cattiverio la devono pur ricavare. Come ministro della cultura me la sento, sono pronto. Ma lo farei volentieri. Mettiamola alle agenzie. È un ministero importantissimo. Antagonismo a Paolo Mieli. Il nome. No, mi alzo in piedi. Ci mettiamo in piedi. Mettiamoci in ginocchio come vuoi. Oh, è stagione di rottamazione. Io sono uno che ha studiato filosofia e uno dei miei filosofi di riferimento diceva che spiegava come si filosofa col martello. Quindi altro che Renzi. Mamma mia, la rottamazione col martello filosofico. Il grande Nietzsche. Lo sapevo io che lo citavo. Vabbè, ministro della cultura parte col suo salamino. Il nuovo ministro della cultura, Pietrangelo Buttafuoco, salamineggia. Prego. Sì, eccomi, pronto a salamineggiare, però nel mio salamineggiare devo per forza fare riferimento alla politica, ad un canone meraviglioso. Oggi leggerete su Repubblica un articolo di Francesco Merlo, che è meglio di Balzac. Meglio di Balzac. Sul turpiloquio, e a un certo punto deve rendere l'onore delle armi a D'Angelino Alfano, ascoltate. No. Silvio Berlusconi in questi anni si è circondato da troppi idioti inutili. Idioti inutili! Da troppi inutili idioti! Si è circondato di troppi inutili idioti! Ma questa è eleganza. Eleganza, vera eleganza. Ha ribaltato totalmente quello che poteva essere. Cretino no, cretino tu. Quindi questa dialettica lui l'ha totalmente ribaltata. Anche il vengo anch'io. Ma ci pensate, l'utile idiota, che credo sia di togliattiana memoria o di staliniana applicazione, perché vi ricordate, certo, c'era la stagione di tutti gli indipendenti sì, che si candidavano a sinistra, poi erano più organici degli altri, invece lui ha dato questa definizione. Sì, ma lui dov'era? No, lui è nel gruppo degli utili idioti oppure si toglie? Non l'ho capito. Togliendosi ha indicato, cioè, quelli, ha cancellato quelli la che sua sono storia. Idioti e inutili nel ruolo. Ha cancellato la sua storia. Idioti esatto. E inutili nel ruolo, però siccome a noi piacciono, come dire, il cosiddetto rumore dello sferruzzare non di uncinetti ma di coltelli, io penso che ci sia la possibilità di offrire a Matteo Renzi un divertimento ulteriore. Cioè? Rottamare Berlusconi. Ma io penso che la paura di essere rottamato ha fatto fare questo discorso a Andrea. Secondo me, ma questa è un'opinione. Me. Poi sai cos'è? Troppa esultanza. Vabbè, sei in minoranza, ti trovi bene. Ma è la vita che sto in minoranza. Allora, adesso fa il ministro. Abbiamo fai il ministro. Adesso fai il ministro. Dettiamo la nota alle agenzie. Io Giovanni, sono il lancio va preparato. Va bene. Butta Sara fuoco Dardelli, due punti. Mi raccomando. Butta fuoco due punti, sono pronto. Il Ministero della Cultura sarà mio. Pensa, quota... ha rinunciato Baricco e tu no, invece. In quota coraggio. Cattiverio io, eh. Sì, naturalmente. In quota cattiverio e con tutte le legioni festanti. Vabbè, andiamo. Si è votato in Sardegna. Si fa per dire. Su Monte Leviotano, Birdeghe in verano, e come è spoledoso, e come è spoledoso. Canto a tenores, è un gruppo, votato in modo di gruppo dire. Di Gnonelli, si è votato in modo di dire, perché in realtà è un non voto. La notizia, però ora atteniamo lo spoglio, entro oggi si saprà tutto, è che alle elezioni appunto è andato solo il 52,16% alle urne. Mai un'affluenza così bassa, con un'affluenza così bassa a me insegnano che può succedere di tutto. Vediamo però i voti veri e poi commenteremo anche noi questo risultato. Andiamo dall'altra parte del mondo. Giappone. E insomma, in Giappone che cosa sta succedendo? Grande fiducia ovviamente e buoni risultati finora della Abenomics, cioè della politica di espansione varata dal primo ministro Shinzo Abe, però i risultati del quarto trimestre del 2013 sono un po' bassi, diciamo, rispetto alle attese. Sono uno 0,3% in più, si aspettava almeno uno 0,7%. Noi diciamo che con lo 0,01 in più tutto va bene. Tutto va bene. Tre volte tanto. Ma sai, lì adesso vediamo che cosa succede. Ci sono varie visioni sulla politica del Giappone. È un tentativo, forse anche l'unico possibile in questo momento, per uscire da una stagnazione che durava da 20 anni. Non so che se questa politica durerà a lungo. Di sicuro una cosa c'è. Che Abe ha una visione chiara di quello che vuol fare. Poi può anche sbagliare, mi segui, però, certo, benissimo. Però sa che cosa fare. Vabbè, sa è che già cosa una fare. Cosa importante, speriamo che sia così anche per noi. E speriamo che sappia cosa fare anche la BCE. Sì. C'è nessuno. Ma che fai? È la cassaforte. Eh? Usare la saponetta è pericoloso. Io da domani mi lavo a secco. Parlo della saponetta esplosiva, farebbe troppo rumore. E allora? E allora bisogna localizzare i chiavistelli cilindrici, inserire delle piccole dose di nitroglicerina e farla saltare. Procedi. Vabbè, Franco e Ciccio, ne sa qualcosa il nostro amico Buttafuoco, che magari si inserisce. Sei già in piedi? Giacca e cravatta? In omaggio a Franco e Ciccio. Ai due grandi. Franco e Ciccio, come svaligiamo la Banca d'Italia, abbiamo fatto questa citazione perché appunto introduciamo un tema della BCE. È sotto traccia, non ne parla quasi nessuno perché sembra poco interessante. In realtà Draghi sta combattendo una battaglia interna per la composizione dell'organismo che dovrà occuparsi della supervisione delle banche europee, che è già cominciata di fatto. C'è un italiano suo candidato che si chiama Ignazio Angeloni, 60 anni, dovrebbe essere quello che è il capo di questo organismo, composto da e chi non vuole persone. I tedeschi? Beh sì. Strano. Sai, lì c'è un mix di nazionalismi e quindi di interessi dei vari stati, e poi ci sono le competenze tecniche. Mario Enrico dalla Grecia, nostro fan, che dice: il ghiaccio giapponese congela l'economia. Non lo so, non lo so. I dati sono, alla fine sono buoni, voglio dire, un trimestre non fa ovviamente un anno. Vediamo il 2014. Questo è un anno importante per capire se l'economia mondiale uscirà o no dalla crisi. Tutti dicono di sì, però è a macchia di leopardo, cioè l'Europa è lenta. Però. Ci chiedono, Leo da Cremona, ci chiedono perché non date i risultati della Sardegna? Perché non ci sono ancora, caro Leo, appena ci saranno li daremo. Purtroppo non ci sono, sono tutti parzialissimi, è inutile dare dati che non sono attendibili. Dicevo, a questo posto chiave sulla supervisione delle banche... Ma tu sei andato a votare? No. Non sei residente in Sardegna? Sì, ma devo stare qua, altrimenti Minoli mi ammazza. Ieri dovevi votare. No, non potevo. Vabbè, non vota, è un non cittadino voto. Non votante. Fai bene, io non voto mai. No, sempre. Ogni tanto io mi capita sempre di non votare. Questo turno per le regionali. Sono un bravo cittadino. La democrazia è siamo cosa rimasti terribile. In pochi, ma è una cosa meravigliosa. Tu hai votato funziona sempre? Io sempre. Quasi sempre. Io sì, sì, sempre. Stavolta no, la trasmissione. Hai trovato le scuse. Sì, ma non ci avevo voglia. Almeno hai letto il libro della Murgia? Quale? Accabbadora? In generale, qualche libro. Qualcosa di Michela ho letto, è del mio paese, di Cabras. Non è grave. Dai, no. Andiamo avanti. Abbiamo visto, abbiamo avuto visto di peggio. Non se ne può più, non se ne può più. Di te. E anche di Sergio, bello che è morto. E soprattutto non se ne può più del dolente erudito, il quale si capisce, ce l'ha solo lui le idee giuste. Però, poverino, egli è afflitto, è impedito da mille meccanismi ostili, perché altrimenti figuriamoci, chissà come metterebbe tutte le cose a posto, lui, questo inesorabile, fatemelo dire perché sennò schiatto, questo implacabile stronzo. Ma di chi parla? Di me! Non Grandioso! Grandioso scenario della Terrazza, film dietro le scuole, nel 1980 vinse il premio alla sceneggiatura a Cannes, se non sbaglio anche, ma lo citiamo perché la grande bellezza ha vinto i BAFTA, che sono l'equivalente delle Academy Awards in Inghilterra, e un altro biglietto da visita importante per l'Oscar del film di Sorrentino. E in realtà La Terrazza di scuola, secondo me, è di fatto quello che ha avviato un'altra terrazza, che è quella di Sorrentino del suo mito, che è Giuseppe Gambardella. Ti lavori tutta la settimana in televisione, esci tutte le sere, pure il lunedì, quando non si manifestano neppure gli spacciatori di Popper. I due figli stanno sempre senza di te, pure durante le vacanze lunghe che ti concedi. Poi hai, per la precisione, un maggiordomo, un cameriere, un cuoco, un autista che accompagna i ragazzi a scuola, tre babysitter. Insomma, come e quando si manifesta il tuo sacrificio? Butta fuoco. Come e quando si manifesta il tuo sacrificio? Il mio? Sì, certo. Beh, lui si sta preparando il sacrificio. Sanremo, sì. Il suo sacrificio. No, è il Ministero della Cultura. Ah, ma no, quello lì è un successo. È un divertimento. Questo Sanremo. Questo Sanremo? Ho isolato 13 obiettivi ricercati per omicidio. Questo è il futuro della giustizia americana. Vivo o morto, tu verrai con me. In realtà questo non è Sanremo. No, non è Sanremo. È Robocop. L'ho inserito. Fanno come vogliono in regia, non seguono. Mi scivolano. No, è Robocop. Robocop. Perché è un roboflop. Nel senso che il remake del film al botteghino negli Stati Uniti ha fatto solo 21,5 milioni di dollari in 3 giorni. Meno delle attese. Ora potete mettere anche Sanremo, se volete. Godetevi queste note di Renzo Arbore, si sente pure la voce di Frassica e il coro. Godetevela questa canzone perché